Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar. Eccoci 8 e 20 qua, minuti. Eccoci qua. Tra un arresto e un altro, questo 26 ottobre comincia. Sì. Hai visto che c'è una bella ondatina di arresti nelle materie autostradali sulla... È vero. Terzo valico, ma anche TAV, no, la A3 Salerno Reggio Calabria, intorno a Pisa, l'impianto a Fune che mette in collegamento l'aeroporto Galileo Galilei con la stazione centrale della città, insomma ce n'è. Questa mattina, notizia di poco fa, hai visto che abbiamo anche un nuovo logo, guarda, abbiamo un nuovo claim, ti piace questa cosa, claim? Ah. Libera la voglia di fare, dalla passione si sente, siamo a Radio 24, libera la voglia di libera fare. Libera la voglia di fare, andiamo di liberarla presto. Ecco, lo sapevo che devi essere subito. No, devo dire che siamo con i nostri ascoltatori, tifiamo perché ci si liberi presto da dei dubbi che non devono gravare sul bilancio di questa società, punto. Hai visto che questo 24 io all'inizio non riuscivo a capire. Poi, è il simbolo di Giove. Sì, ma è il simbolo di Giove come pianeta. Sì. Chi lo sa? No, andiamo tutti su Giove. No, perché anche perché hai visto l'esperienza di Marte, probabilmente Giove eviterei. Ecco. Vabbè, insomma, se non avete capito, abbiamo un nuovo simbolo. Ecco, andiamo a un nuovo abbiamo logo, anche una nuova app. Una nuova app. Seguiteci, quindi, visto che io invito anche tutti i nostri ascoltatori all'estero di seguirci sempre con le nuove, tutti i nuovi strumenti tecnologici. Tutti i nuovi strumenti tecnologici che, come l'oroscopo e il simbolo di Giove che viene ripreso nel nostro logo, però non è evitano, caro il mio Alessandro, che le vite degli umani si restino imprevedibili, quasi come i risultati del calcio. Ma per me ieri era prevedibilissimo, quindi bene, torniamo alle nostre quote di crociera verso un sano sesto posto. Dai su, non dire così. È così. Che santi ci sono oggi? Allora, oggi noi abbiamo una dedica, perché i nostri ascoltatori ci hanno chiesto di fare la dedica di un loro collega che sta alla Vodafone Automotive a Roma e si chiama Evaristo. Evaristo Papa, tranne il fatto che i nostri ascoltatori che ce l'hanno chiesto e che stiamo secondando, quindi auguri Evaristo, però il problema è che Sant'Evaristo si festeggia domani e non oggi, quindi io li ho fatti comunque perché sennò ci rimanevate male, ma in realtà oggi tra i santi Alfredo, re del Wessex, poi Beano, Gaudioso e Sant'Orsa, che siccome a me tutti i santi con nomini di animali e animaletti mi stanno simpatici, Sant'Orsa. Lo dici perché sai l'argomento che ho approfondiremo. Esattamente, oggi. bravo. Però dai, manteniamo ancora un po' in sospeso i nostri ascoltatori. Che cosa succedeva oggi nella storia? L'incontro di Teano tra Vittorio Emanuele e Garibaldi, questa sventura dell'Unità d'Italia, vabbè, questa bellissima impresa dei garibaldini. E nel 1958 Papa Giovanni XXIII appunto diventava Papa, e tra chi compie gli anni oggi Hillary Clinton, quindi direi a questo punto il prossimo presidente degli Stati Uniti, Silvia Toffanin e l'onorevole Brambilla di Forza Italia, e anche il collega Giovanni Masotti del TG2, a cui faccio gli auguri perché sono tanti anni che ci conosciamo. Allora, noi, caro Oscar, vogliamo invitare gli ascoltatori a chiamarci all'800 24 00 24, intanto per quello che è successo ieri a Goro e Gorino, la pantera di Goro e Gorino. Goro e Gorino, dove mio pensiero è stato un fallimento totale dello Stato. Lo Stato che prima vuole requisire un ostello, poi vanno a barricarsi in un centinaio di abitanti e lo Stato arretra di fronte a questi 100 che manifestano dicendo non vogliamo qui l'invasione. Sarebbero arrivate 12 donne, di cui una incinta di 8 mesi. C'è tutta una situazione che da dove la prendi è un... no? Da qualunque lato la prendi è un disastro totale. Per quello che rivela, cioè organizzazione non coordinata centro-periferia, reazioni sproporzionate rispetto al fenomeno, comunque una volta che tu fai presente le cose A e B, la reazione C è, ma comunque è un simbolo di gente che si è rotta e allora presente sì, di no comunque. Prendeteveli a casa vostra. Sai quanti sono arrivati di messaggi? Prendili a casa tua, tua Oscar, tu anche mia. Prenditeli a casa tua, così risolviamo il problema. Questo questo è. Comunque chiamateci su questo tema. Senti la popolazione, alcune voci, senti. Non li vogliamo noi, perché questo è un paese libero. Siamo tutti pescatori, lavorano donne. Qui non vogliamo nessuno. Non siamo razzisti, anche perché ci sono donne e bambini, ma poi le donne hanno i loro uomini. Io c'ho mio marito, dove vado io viene anche mio marito. E sono convinta che poi ci mandano anche gli uomini. Vittoria di Gorino. Dopo Gaibanella, Gorino va sui libri della storia. Gorino ha vinto, vinceranno tutti i paesi, perché Gorino, capito, insieme a Gaibanella verranno ad aiutarci. Capito, effettivamente questo forse è l'unico che ha ragione. Cioè, la vittoria di Gorino, ma ci rendiamo conto? No? Si va a manifestare? No, qui no! E domani allora il segnale è questo, manifestate, cari italiani. Beh sì, ha senso dubbio questo. E comunque voglio dire, lo stato d'animo in molte parti d'Italia, perché un segnale così venga riprodotto, moltiplicato, c'è. Le ragioni ci sono, se vuoi vedere la carta geografica italiana, gli indici di concentrazione dei flussi degli anni eccetera eccetera sono irregolarmente distribuiti, quindi ce n'è, per così dire, di ragioni per protestare. Adesso vedremo come funzionerà sto cavolo di coordinamento tra comuni e Stato centrale, senza che decidano più i prefetti come terminale periferico, esatto, che sono stati il problema. Prefetto come quello di Ferrara, che pare, secondo il Messaggero, possa già saltare, perché questo dietro front, di fronte al fatto che ci siano state le barricate, ha portato perché Alfano a pensare di dire bah, una gestione, come dire, un po' improvvisata, mettiamola così. Però vedi che alla fine malgrado gli impegni presi, non facciamo più decidere i prefetti, ci confrontiamo con la realtà locale, la lentezza con cui poi maturano davvero in Italia queste nuove procedure fa sì che sono ancora i prefetti a intervenire. E questa cosa è all'origine del problema, è inutile dire di no. Naturalmente, cari ascoltatori che la pensate così e che dite che hanno fatto bene a insorgere. Tutti, guarda, io sto con Gorino. Ma capite che stiamo parlando di numeri tali, numeri di fronte ai quali chiunque sia un po' serio dovrebbe dire, vabbè, è tutta un'esagerazione, stiamo parlando di 12, su, non so. Poi mi rendo conto che a volte nella esagitazione i problemi veri si manifestano anche attraverso forme, posso dire, paradossalmente ridicole, perché questa è stata una storia che sembra più uscire dalle comiche che da una tragedia. Eccolo qua. Vedi che è arrivato. Perché a Milano gli ospiti a casa tua? Sarebbe una bella cosa, va bene. Ma lì diceva. Comunque, tra l'altro, devo informare gli ascoltatori che in questo momento vive a casa mia un ragazzo dello Utah, anche lui extracomunitario. Starà qua fino a dicembre. Rispondente al profilo degli extracomunitari che attraversano il Mediterraneo con i gommoni. Se viene dallo Utah, ecco. Insomma, capito, è arrivato in aereo, effettivamente. Effettivamente, però così. Ma cos'è? È un difensore per il Milan? No. Ti hanno chiesto di ospitare mentre lo stanno. Però ne avremmo bisogno. Però, caro Oscar, chiamateci su questo, ma intanto noi dobbiamo parlare di un altro argomento, dobbiamo parlare di un libro. Un libro che sta avendo che molto successo. Altrettanto, esatto, rispetto a quello del. Esatto. Un libro che, secondo alcuni che l'hanno recensito così: chi mangerà la carne dopo aver letto questo libro, chi insisterà a mangiare la carne, quantomeno dimostrerà di avere uno stomaco di ghisa. Foderato di ghisa. Questo ha scritto, per esempio, Andrea Scanzi del libro di Giulia Innocenzi, titolo Trita Carne, edito da Rizzoli. Giulia, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a voi. Vegetariana, vegana? Vegetariana, quasi vegana. Quasi vegana, nel senso ognuno che ci arriverà. La tua definizione. Ci arriverai presto, ormai. Però, noi che abbiamo letto molto più religiosamente di quanto tu non dici solo 24 ore il libro, sì. No, io ho capito una cosa, per esempio mi sfuggiva dell'entusiasmo di Giuliano affrontare il tema, cioè, però l'ho capita e gliene rendo merito, perché lei ammette nel libro che quando era, non voglio dire giovane perché giovanissimi, quindi quando era ancora bimba, più giovane bimba. La matrice anglosassone presente nella sua famiglia li portava a mangiare col ketchup a tavola, sulla pasta, sulle cose. Allora capisci che io capisco conosco Giulia perché sta un po' espiando gli eccessi. Sto scherzando. Da un eccesso all'altro. Sto scherzando. No, allora, Trita Carne nasce da un'inchiesta che tu hai fatto e mostrato anche in TV, cioè possiamo dire irruzione. Tu non ne fai mistero, racconti di avere fatto irruzione, quindi di aver fatto anche qualcosa di illegale, sicuramente in allevamenti italiani o no? Anche perché l'unico modo per poter raccontare quello che succede veramente all'interno degli allevamenti intensivi è entrare di notte come ho fatto, oppure mandando dei miei infiltrati negli allevamenti che hanno filmato con le telecamerine nascoste. E che cosa hai scoperto? Ovviamente lo descrivi bene nel libro, ma cosa sono le cose più sconvolgenti che ti hanno colpito in questa inchiesta? Innanzitutto dobbiamo darci dei numeri, perché fino adesso abbiamo sentito che il Made in Italy è un'eccellenza e non va assolutamente discussa. Ecco, il Made in Italy dei prodotti di origine animale viene fatta per l'80% da animali che vengono allevati negli allevamenti intensivi. Cosa significa? Che sono animali rinchiusi in dei capannoni ammassati uno sopra l'altro, che vivono nelle loro feci, che mangiano anche le loro feci, e questo l'ho visto anche con i miei occhi, e proprio per queste condizioni igieniche ultra precarie vanno imbottiti di antibiotici, e questo significa gravi conseguenze per la carne che poi il consumatore si mangia. Una delle scene che proprio mi ha più colpito è stata ai maiali. Ormai mi sono un po' affezionata, perché poi il maiale è un animale così un po' schifato, invece è un animale intelligentissimo, curioso, per la maggior parte del tempo in natura grufolerebbe, invece rinchiuso in questi recinti si annoia tantissimo, e per passare il tempo, visto che è ammassato in questo recinto, mangia la codina degli altri maiali. Questa pratica è talmente riconosciuta, che è riconosciuta anche per legge, che l'allevatore può tagliare la coda dei maiali, ma l'ho visto con i miei occhi, comunque continuano a mangiarsela. Addirittura ho beccato maiali senza più la coda, cioè fanno proprio atti di cannibalismo. Cioè, quindi dice, molti degli allevamenti non tengono conto del benessere dell'animale, ecco, mettiamola così. L'allevamento intensivo purtroppo è una tortura legalizzata nei confronti dell'animale, e non è solo una questione di benessere animale, non è solo una questione etica, ma è anche una questione della salute, della salubrità di quello che poi ci mangiamo. Tu lo sapevi, per esempio, Alessandro, che su 52 pagine disciplinari del prosciutto di Parma, 4 sono sui timbri e una sola riguarda a malapena il maiale, da cui si fa questo, per esempio, io non lo sapevo, dire la verità. Io conosco abbastanza la realtà che descrive con un grande forza icastica, no? La presentazione, gli eccessi. Chiamarli eccessi statisticamente non dà l'idea. Ha ragione in questo, Giulia. Sono la prassi, sono la regola, non sono l'eccezione statistica. L'allenamento intensivo è praticato in questa maniera qua. C'è poco da fare. Un'aberrazione, esatto. Legalizzata, questo è il problema. Allora, il problema è che tu dici che è legalizzata. La questione è che, a vedere le leggi, le direttive europee e non anche le vigenti, in realtà è completamente illegale. Il problema è che già le leggi ammettono di per sé la negazione dell'animale, per esempio i 22 polli per metro quadrato, insomma. I 22 polli per metro quadro, e questa è un'immagine che più o meno conosciamo già tutti, che il pollo ci mette 38 giorni per crescere, poi va direttamente al macello. Ma per esempio pensiamo, l'Italia è il primo produttore in Europa di carne di coniglio, il 99% dei conigli allevati in questo paese vive su una gabbia, vive su un reticolato. Immaginiamoci le conseguenze per le zampe di questi animali. I conigli sono gli animali con più alta mortalità all'interno degli allevamenti. Un terzo muore prima di raggiungere l'età della macellazione, proprio perché sono luoghi veramente con condizioni igienico-sanitarie ultra precarie, e sono animali che prendono infezioni continuamente. Però devo dire, Giulia, tu hai maturato questa decisione di essere vegetariana dopo aver constatato che molti allevamenti che hai visitato così sono così, oppure cioè se fossero tenuti gli animali in una condizione invece di totale rispetto della legge ovunque, questo farebbe cambiare la tua idea nel rapporto? Guarda, con gli animali? Io sono cresciuta con cadaverini di uccelli con testolina penzolante nel mio figlio di un cacciatore, figlio di un cacciatore. Perché mio papà, no, perché se lo dici così pensano che sei figlio di assassini seriali. Scusa, figlio di un cacciatore. Magari facevo i riti voodoo con gli uccellini nel... no. Figlia di cacciatore. Visto che lavoro molto per immagini, ho delle immagini impresse nella mia mente, una è questa appunto di quando dovevo prendere qualcosa nel frigo, dovevo scansare questi cadaverini. Quindi non sono mai cresciuta in un ambiente ideologico, ho mangiato io carne fino a 3 anni e mezzo fa, oltretutto sono romagnola, quindi ti puoi immaginare gli affettati, il salame, ragù, e tutte le cose di cui mi sono proprio abbuffata. E no, è quindi, stato no, per però me devi... un libro. Aspetta, la prima cosa. Esatto, è stato no, un libro. Cioè avere constatato sul campo come sono le cose che... Avere Galeotto Jonathan Safran Foer, Jonathan Safran Foer, che però raccontava gli allevamenti intensivi in America, e io ho pensato, ma in Italia come saranno questi allevamenti intensivi? E da lì mi è venuta la curiosità, anche perché non potevo credere che quello che avevo letto sull'America fosse riprodotto alla fine quasi esattamente anche in Italia. Però sono tutti così, perché guarda Giulia, ci scrivono anche molti, ovviamente anche allevatori, che dicono ma non è così la realtà, cioè non saranno tutti, non si può far generalizzare, ci saranno anche molti allevatori che dicono io rispetto, oppure tu hai proprio constatato percentualmente, no, che ripeto, l'allevamento intensivo è questo, è la negazione dell'animale su ogni animale che io poi racconto. La gallina, oltre il 60% delle galline vive nelle gabbie sul reticolato, ma anche quelle che vivono nel capannone, anche lì ci sono i fenomeni della plumofagia, cioè queste galline che, e anche polli che si beccano uno sull'altro, e anche lì atti di cannibalismo. Purtroppo l'allevamento intensivo, per le sue condizioni così esasperate per l'esistenza degli animali, fa sì che guarda Giulia, ci chiama Emanuele, mi dicono dalla redazione essere un veterinario, è vero? Emanuele da Lucca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Dite, io sono veterinario, per anche per esperienze professionali ho frequentato qualche allevamento, anche se mi occupo di altro, ho frequentato macelli. No, dico che effettivamente le condizioni in cui sono questi allevamenti intensivi sono condizioni molto tristi, diciamo, per il benessere degli animali, e sicuramente noi dobbiamo cercare di fare molto meglio, perché non possono essere trattati in questa maniera. Manuele, posso dopodiché ti faccio un'osservazione, perché dal libro di Giulio Innocenzi quello che traspare è che i veterinari spesso, con eccezioni, ma spesso sono totalmente conniventi gli interessi dell'allevamento intensivo. È un rilievo secondo te fondato alla luce di quello che sai e di quello che vedi intorno a te nel tuo ambiente professionale, Emanuele, oppure no? Ma io generalmente conniventi in che senso? Conniventi nel senso che non elevano contestazioni rispetto a quello che è macro evidente negli allevamenti, dove vanno a svolgere la loro professione, le loro visite ispettive, fanno finta di non vedere. Ma io questo non mi sentirei di dirlo, non ho esperienze dirette in questo senso, no? Però Emanuele, posso dire una cosa? Uno dei problemi secondo me più gravi è che per esempio non c'è in molte ASL la rotazione dei veterinari, cioè ci sono veterinari che si ritrovano a controllare la stessa zona con gli stessi allevamenti oppure lo stesso macello anche per 20 anni, e lo racconto per esempio su un caso giudiziario che ha riguardato Amadori. In quel caso io non dico che si parla di corruzione, no, o di cose però più gravi, dico solo che è anche una questione umana. Io ti conosco da 20 anni, sì, prima di farti una sanzione, diciamo. Chiudo un occhio. Emanuele, vuoi concludere l'intervento? La chiosa era che sì, bisogna sicuramente cercare di fare le cose meglio, ma bisogna rendersi anche conto, secondo me, a carattere generale, che senza gli allevamenti intensivi e senza l'agricoltura intensiva noi 7, presto 8 miliardi di persone su questo pianeta non le sfameremo mai. Non le sfameremo mai, no, perché la linea è andata un po' via, sì, cioè, sono una triste necessità, posso concludere così il suo ragionamento, Emanuele? Pensa che bisogna però cercare di fare le cose fatte meglio, sì, certo. Non è pensibile. Però servono per alimentare le persone. No, ma è chiarissimo. Io devo dire, ho letto il libro, continuerò a mangiare un salame, non so, mi devo sentire un po' in colpa, Giulia, per questo. Ma assolutamente no, guarda, no. Anzi. Eh beh, però insomma mi dici, guarda, contro le persone prima di tutto sta sul cavolo a me, quindi figurati se mi metto io a giudicare gli altri. Per me è importante soltanto che tu all'Inomilan sappia cosa ti mangi e che sia una decisione un salame, tua, un salame, sì, certo. Non ti mangi il salame, ti mangi un maiale e tu devi sapere come questo maiale è stato cresciuto e qual è il costo del tuo piatto, secondo me, anche in termini di sofferenza animale. Però quello che diceva Emanuele, il veterinario, che l'allevamento intensivo è l'unico modo per darci da mangiare, visto che la popolazione crescerà. Io penso esattamente il contrario. Noi non possiamo andare avanti con gli allevamenti intensivi, non possiamo andare avanti mangiando questa grandissima quantità di carne, proprio perché siamo sempre di più su questo pianeta e l'allevamento intensivo, oltre a quello che ci siamo detti, è anche una bomba ecologica. Nessuno lo dice, ma l'industria degli allevamenti è molto più inquinante in termini di cambiamento climatico rispetto all'industria dei trasporti. Il 18% dei gas serra viene dagli allevamenti intensivi. Visto che saremo sempre di più e paesi come India e Cina stanno mangiando sempre più carne, noi non possiamo andare avanti con questo modello perché economico. La tesi del libro, effettivamente, cari ascoltatori, è che Giulio Innocenzi vuole anche dire che c'è proprio un diverso modello di potersi cibare, sfamare, per anche poter salvare il mondo. È un po' anche il sottotitolo di questa inchiesta. Beh, per renderlo più sostenibile. Per renderlo più sostenibile, ecco, sì. Vabbè, cara Giulia, noi intanto ti ringraziamo. Tritacarne lo trovate in libreria di Giulia Innocenzi. Guarda che lo stanno già ristampando. Edito da Rizzoli, sì, so che sta andando molto bene. Bene. Fai sono gli allevatori che se lo comprano per vedere quanto temere le prossime richieste di Giulia. Sei andata a battagliare in TV anche, insomma, con le bistecche e va bene. Ma fino a questo momento poi gli è andata bene anche i critici, dai. Fino a questo momento le recensioni critiche sono delle punzecchiature. Ma non è Giulia che sono troppo buoni con te? Cioè, ma se sono tutti cattivissimi con me, io mi ritengo una personcina simpatica, ma mi odiano più o meno quasi tutti, quindi in realtà sono sempre cattivi. Però questa volta cosa puoi dire? Cioè, chi è che è d'accordo? Chi è in favore degli allevamenti intensivi? Ecco, questo il punto è difficile trovare. No, c'è qualcuno che lo fa, però bisogna ammettere che lo fa difendendo delle cose che non funzionano. Per esempio, forse il più cattivo è stato Camillo Langone, perché ha scritto che siccome è andata a fare delle irruzioni andrebbe arrestata. Ma Camillo, lo sai che per chi lo legge, lo conosce il foglio, abbraccia tutte le tese estremi, dalla religione alla misoginia. Ma detto questo, il punto è che molti giustamente dicono: chi se ne frega, se soffrono meno, tanto li macelliamo comunque. Ma il punto che li mette in crisi a molti è la lettura di dire quello che vuoi, se sei indifferente alle sofferenze degli animali. Però il punto è che si cibano delle feci, per come sono stipati uno con l'altro, delle proprie feci. Mangiandoti e chi mangi quello? Allora, questo argomento, diciamo, ha un'efficacia talvolta anche sugli indifferenti, superiore. No, Giulia? Questo libro in realtà è proprio in difesa del carnivoro più incallito, quello che anzi magari vorrebbe lui stesso torturare gli animali, perché il problema è che animali maltrattati, animali sofferenti producono una carne insalubre, e quindi il primo che dovrebbe interessarsene è proprio quello che si mangia la carne. Va bene, grazie Giulia Innocenzi, ti abbracciamo. L'ultimo appello, siccome bisogna trattare bene gli animali, quindi voi donne trattate meglio noi uomini. Esatto, punto. Questo potreste fare. Adorabile. Per esempio la domanda non te la dovevo fare, ma no, non gliela farai mai. Non gliela devi fare. Avevi detto che avevamo detto che non la facevi. Ma dai, gliela faccio lo stesso. No, dai. Gliela faccio o no? Va bene. Ma stai ancora con Puff? No, Dio mio. Che miseria, non dovevo fartela. Ma chi l'ha fatta questa domanda, Giannino? No, sono Alessandro. Io è da ieri che gli dico: ma cosa c'entra? No. Vabbè. Allora, pubblicità. Un bel verro ti risponderei. Un bel verro. No, bisogna levarlo l'odore del verro. Va bene. L'ho fatta. L'ho fatta la domanda. Ok, dai. Pubblicità. Ciao Giulia. Allora, sono nate 46 minuti, c'era Oscar Giannino che qui guardava come si può stare a fare il sindaco di Sulmona. Quando c'hai 46 indagati che furbetti del cartellino su 102, pensa un pochino. Dai. 46 su 102 sono un buon 50%. Buon 50%. La questione è: ma il resto, 50% tra virgolette, che non come lo faceva, come si può sentire? Questo è il punto. Non lo so. Comunque, a Sulmona, giustamente noi ridiamo, ma se oggi, cari amici di Sulmona, dovete andare a prendere un documento, l'anagrafe di Sulmona, e vedete che non c'è nessuno, non vi preoccupate, che metà sono indagati o. No, ma il bello è che e c'è il rischio della paralisi. C'è una cosa che io non capisco. Il sindaco comunale dice: fate presto. Tra l'altro, sindaco, questa espressione mi faccio piano a usarla. Fate presto, perché altrimenti si chiude. No, no, caro sindaco, al contrario. Bisognerebbe già chiudere. Siete andati avanti con metà dei dipendenti che non lavoravano. Poverina, è lì da 4 mesi, quindi non, ma io, è, no, non è. No, ma non voglio colpevolizzare lei. Dico solo che usi meglio le espressioni, perché altrimenti si chiude. Come evidente, andavate avanti con metà della gente a spasso. Poveri noi. Poveri noi. Comunque, vi siete anche scatenati su Goro? Che ne so, Dario ci chiama da Milano, buongiorno. C'è nessuno da Goro, Gorino, che ci può chiamare? Beh, Dario, da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. Per i fatti di Goro e Gorino, di pancia mi verrebbe da dire Goro, capitale d'Italia. Sì. Per essere un po' più seriosi, però, bisogna analizzare la faccenda, che è andata malissimo. Il prefetto andrebbe cacciato a pedate, ecco. Ma non per il fatto che ha fatto ritornare indietro il pullman, perché quello l'avremmo fatto tutti, tu non puoi manganellare una popolazione. Ma prima devi sondare con le autorità locali la volontà di accogliere questi profughi, perché la popolazione di Goro ha tutto il diritto di non volere, il diritto sacrosanto. Ma perché poi lo sappiamo che lo Stato ti molla lì i profughi e ciao Peppe. Però il diritto, fare? Però non è che la città di Goro è dei cittadini di Goro. E di chi è? Chi ci abita? Ma non è che è loro la città, cioè vivono a Goro, ma voglio dire, i principi, per lei i principi di solidarietà, accoglienza non esistono. Sì, tutto quello che vuoi ci sta. Dai, me lo dica, li metta a casa sua, dai, me lo dica. Che... No, non le dico questo, li metta a casa sua, no, per carità, ci mancherebbe. Però se lei fosse un nazista e vive in una città di nazisti, cosa faccio? Io le mando un pullman di ebrei? Capisce quello che voglio dire? Hai attenzione con gli esempi, attenzione con gli esempi. È un paragone lievemente azzardato. Stiamo parlando di 12 donne, di cui una incinta che scappava una dalla Nigeria dalle persecuzioni, una dalla Sierra Leone dalle persecuzioni. Però, non si tratta di razzismo. Fa una differenza per me. Per me fa una differenza. Vi mettiamo qui 12 spacciatori oppure mettiamo qui profughi che scappano dalla Sierra Leone. Dario non ha ben considerato, facendo l'esempio dei nazisti e degli ebrei, perché è un po' fuori luogo, però al netto di questo, che la reazione si provochi quando lo Stato non sonda le comunità, non ne talta il polso, cioè non esercita anche la funzione di spiegare perché, e la gente si trova di fronte all'annuncio domani arrivano, ecco, io su questo sono d'accordo con il nostro ascoltatore, tutto il resto su certo, la gestione sbagliata, Dario, lei ha ragione, abbiamo detto dall'inizio che è stata una gestione totalmente sbagliata. Roberto dalla provincia di Monza. Buongiorno Giannino, buongiorno. Oscar, eccoci, e complimenti per la trasmissione, per la vostra conduzione molto fine e intelligente. Allora, io faccio il camionista e quindi giro l'Italia, vedo un po' tante facce di queste storie qui, no? E fondamentalmente secondo me l'Italia non è un paese razzista, perché quando vengono queste persone, chi è integrato vive bene, non è tacciato di colore della pelle, queste cose qua, tranne qualche caso isolato. Detto questo, secondo me a Gorino hanno i cittadini, forse hanno esagerato nell'interno, trapprendere il discorso con queste donne, questi bambini. È vero anche che lo Stato mette queste persone, distribuisce queste persone e poi, come diceva l'ascoltatore prima, magari non si cura fino in fondo di come vengono gestite. In quanto poi, ma infatti il problema, come vede, torniamo sempre lì, è uno Stato che non sa gestire questa situazione. È questo che genera le situazioni come Goro e Gorino, eh? Esatto, secondo me questo discorso qua sussiste in primis. Poi c'è da dire che queste persone che arrivano, c'è il buono, c'è il brutto, c'è il cattivo. No, poi c'è anche chi eccede, chi lo fa, mettendo in mente la politica e quindi montando il caso che diventa un caso nazionale in 2 ore, non c'è dubbio. Però la questione, vedi però Alessandro, il nostro ascoltatore possono pensare diversamente, ma ci ripropongono un tema che evidentemente è diffusissimo nell'opinione pubblica, nella convinzione generale, ed è un tema giusto. Cioè, da 20 anni dopo la legge Martelli, più di 20 anni dopo, 25 anni dall'inizio degli anni 90, noi non avevamo creato un modello condiviso, Stato, autonomie, periferie. La gente non è stata coinvolta e alla fine è così che un paese diventa intollerante. Non perché lo sia davvero, nel suo DNA, nella sua storia. Secondo me si è intollerante in alcune espressioni, in alcune forme, in alcune persone, perché si è appunto gestita questa situazione coi piedi, l'hai quindi detto tu. Più che dire colpa agli italiani, per esempio, secondo me anche Alfano ieri ha ecceduto nel condannare, no, nel definire quello che è successo, quello che è una pagina della vergogna. Cioè, no, se si montano i toni da una non parte è e dall'altra, Italia, no, è Italia. Invece, ecco, se si montano i toni da una parte e dall'altra, si finisce poi davvero con le rune e le manifestazioni con gente con strade divise nelle piazze, e quindi e si fanno poi magari loghi con i pianeti, perché però detto questo invece secondo me bisogna mantenersi freddi nelle reazioni, freddi. Ecco, io fossi stato nel ministro ieri non avrei usato parole così estreme, per essere chiari, perché a quel punto stai dicendo alla gente protestate ancora di più, pensate a Saturno, pensate... Allora, e invece un pochino più di freddezza. C'è Antonio da Latina, il nostro ultimo ascoltatore di oggi. Antonio, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, io intanto giusto a Giannino un appuntino, perché ridicolizzare la protesta di Goro dicendo che 20 persone non sono state accolte, la cosa è risibile, implicitamente giustifica il fatto che quando magari le persone sono più di 100, allora la protesta è legittima. Uno. Secondo, la gente non capisce, o perlomeno capisce pure troppo bene, qual è il motivo per cui tutta questa deportazione di massa di persone sta avvenendo nel nostro paese. Se non c'è lavoro, se c'è una povertà diffusa ed è galoppante, far venire tutte queste persone alle quali non possiamo dare un'assistenza né economica, perché non ci abbiamo i mezzi. Antonio, che molte di queste non sa che alcune di queste donne, racconta Repubblica, non sapevano neanche l'esistenza dell'Italia fino a ieri. Magari non vogliono stare in Lei Italia. Lei dice far sono venire, qui. Non è che esatto, c'è una rete di importatori. Cioè, esatto. sono quelli purtroppo i laidi trafficanti di carne umana, non è che l'Italia è lì che quei cartelli li mandano in Italia, perché è la prima fermata, lo dico brutalmente, dal di là del Mediterraneo è la prima fermata, ma molte di loro in Italia non vogliono neanche starci, non vogliono semplicemente scappare e non sanno dove andare. Comunque il tema è molto controverso, caro Oscar, noi ci dobbiamo fermare. Io voglio mandare un abbraccio a Germana Caprotti, che è stata... Germana Chiodi, sì, no, Germana... lo dico apposta, esatto. Germana Caprotti, la segretaria di Caprotti. Germana Caprotti, ricordati degli amici, per così dire, ora che hai ereditato. Amici da una vita, Amici da una vita. Continuate su 24.